Ecco, sappiamo che ieri i giornali e le televisioni hanno dato questa notizia dell'accordo di pace tra il presidente degli Stati Uniti e quello della Corea del Nord, e un piccolo commento in un articoletto che ha scritto Don Mauro Leonardi su un quotidiano, e mi ha colpito perché poi e mi ha dato spunto per il tema di questa meditazione, perché lui diceva, ecco, metteva in evidenza due piccoli fatti esterni, insomma, diciamo dal punto di vista umano, che queste due persone si sono, cioè che l'appuntamento è avvenuto molto puntuale da parte di tutte e due, si vede che ci tenevano, e questo era un gesto esterno di rispetto. E poi il fatto che sembra banale dirlo, ma invece lui poi accennava al Vangelo, e questo mi ha dato l'idea che questo accordo è avvenuto con l'incontro personale dei due, e il presidente degli Stati Uniti diceva adesso lo conosco, quindi la presenza di persona, ovviamente, come sappiamo in tutta la nostra esperienza umana, a volte può dare, non è automatico, no? Però può portare conoscenza, può portare, insomma. E così subito dopo l'accenno a cui io non avevo mai pensato, in effetti, al Vangelo, che lui diceva è come quello che fa Dio Padre con noi quando ci manda Gesù, in effetti c'è l'accenno e insomma, l'esplicitazione della pace come frutto quindi proprio dell'invio, no? L'invio è la missione, noi conosciamo nella Trinità la missione, no? del Figlio, la missione anche dello Spirito Santo, e in effetti dopo poi sono andato a controllare, no? nel Nuovo Testamento, e su questo possiamo soffermarci un po'. E pensando appunto al nostro incontro con Gesù e anche diciamo, fatto di, essendo ciascuno di noi, no? Unito a Cristo, il fatto che ciascuno di noi possa essere, grazie all'unione con Cristo, messaggero di pace, costruttore di pace, come dice quella beatitudine del Vangelo di Matteo, o seminatore di pace, di gioia, come diceva San José Maria, no? di ciascuno di noi. In effetti è proprio, cioè sappiamo che la pace è una caratteristica del Messia, del tempo messianico, no? Ancora profetizzata. In effetti il Vangelo forse che più parla della pace è il Vangelo di Luca, e fin dal momento del Benedictus, no? Quell'inno che compare è come tra le prime parole che Zaccaria pronuncia dopo che gli viene restituita la voce, no? Dopo la nascita del bambino, di Giovanni, no? E a un certo punto lui dice in questo inno che la Chiesa, attraverso le lodi del mattino, ripete ogni giorno, no? Ogni giorno al mattino, proprio all'inizio della giornata: grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Questo sole che sorge dall'alto, no? Che visiterà noi, che è appunto è una profezia sul bambino che sarebbe nato da Maria, no? E dirigere i nostri passi, ecco, risplendere, dare luce nelle tenebre, risplendere e orientare i nostri passi sulla via della pace. Questo proprio ancora all'inizio del Vangelo, e subito dopo quello che forse ricordavamo con più facilità, ecco, dopo, quando arriva Gesù, quando viene ad abitare in mezzo a noi, quando il Verbo si fa carne, quando, ecco, quando lo possiamo vedere, toccare, quando sua madre comincia. Ecco, lo stringe dalle sue braccia, lo allatta, quando, ecco, a Betlemme, no? Quando i pastori vengono avvertiti in sogno dall'angelo, e poi dopo, questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia, subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Quindi la venuta di Cristo, cioè la possibilità dell'incontro con Lui, dello stare con Lui, produce, no? Pace. Questo è il frutto che il Signore ci vuole donare, con Gesù. Poi, sempre nel Vangelo di Luca, più avanti, abbiamo due episodi, due incontri di Gesù con due donne. La prima è la donna cosiddetta, cioè, che si presenta come la peccatrice, no? Che entra nella casa dove lui sta pranzando con Simone il fariseo, e alla fine dell'incontro con lei, ci ricordiamo tutti i particolari, no? Lavare i piedi di Gesù con le sue lacrime, baciarli, asciugarli con i suoi capelli. Gesù la congeda dicendo, dopo che ha detto al fariseo: sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato, invece colui del quale si perdona poco ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. L'incontro con Gesù che provoca il perdono dei peccati si conclude con un incoraggiamento, un invito, una certezza della pace. Quindi in questo caso è la pace interiore, no? È la pace, perché sappiamo che, insomma, la pace ha varie declinazioni, sicuramente la pace del cuore, dell'anima, dello spirito. La pace interiore è come situazione di serenità acquisita e stabile, e poi sicuramente la pace nei rapporti familiari, sociali, e poi anche, come sappiamo e come chiediamo nella preghiera, anche tra nazioni in tutto il mondo. Il secondo incontro anche a questa donna, invece in quel caso era la donna che perdeva sangue da 12 anni: qualcuno mi ha toccato, ho sentito che una forza è uscita da me, dice Gesù. Allora la donna, vedendo che non poteva rimanere nascosta, tremante, venne, si gettò ai suoi piedi, dichiarò davanti a tutto il popolo per quale motivo l'aveva toccato e come era stata guarita all'istante. Egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace. E poi quindi ecco, anche in questo caso è un incontro con Gesù che invece guarisce, anche in modo inconsapevole, pensate che pensiamo, no? E ci riempie di meraviglia e di speranza, no? Il fatto che bastava toccare Gesù, no? Per essere guariti o con la fede, no? E addirittura in questo caso il suo mantello, no? Pensiamo al nostro ricevere l'Eucaristia, no? Ieri ci raccontava la mamma di Benedetto, no? Quel bambino pieno di vivacità e che soffre insomma, la sindrome di Down, che ha fatto la comunione quest'anno, da un anno già ormai, quasi. Che lui, pur essendo appunto così come tutti i bambini, ovviamente appassionato della colazione del mattino, del pane e della Nutella, però da quando riceve Gesù, da quando ha fatto la comunione, vuole andare a messa tutti i giorni e anche spiegandogli la mamma, in quei casi in cui deve andare a scuola e magari si è svegliato tardi, non c'è tempo di fare tutte e due le cose, la colazione e la messa. Lui sceglie la messa, no? Cioè vuole. E la mamma cerca di capire se ha ben capito, cioè che guarda che non possiamo fare tutte le cose. E lui dice: no, no, mamma, Gesù, Gesù. Cioè, e si sveglia proprio facendo il segno della croce, messa, e poi Gesù ha fatto l'esperienza dell'incontro con Gesù che salva, dell'incontro che sana, dell'incontro che. E lo desidera così con tutto il suo cuore, no? E quindi è proprio un testimone dell'azione dello Spirito Santo nel suo cuore. Magari anche noi appunto andassimo all'Eucaristia, glielo diciamo al Signore adesso, vorremmo, no? Andare all'Eucaristia con questa stessa fede da bambino, no? Potremmo dire fede da bambino down, che è ancora più forte, no? Quello è questa esperienza che fanno queste due donne di avere la pace, no? Nel cuore dall'incontro con Gesù. In effetti, Gesù, quando sempre nel Vangelo di Luca, capitolo decimo, quando dà le istruzioni ai suoi discepoli, che manda due a due, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. È interessante, no? Che quando che sia questo il saluto, no? Che poi è rimasto anche nella. Quando si va a dare la comunione a un malato, no? Quindi nel rito quando il sacerdote va da lui nella sua casa, nella sua stanza, dice queste parole. È interessante che la pace che si augura e che noi portiamo grazie al fatto di essere discepoli di Cristo, cioè lo desideriamo portarla, no? Ci possiamo chiedere se siamo percepiti così, no? Persone che portano la pace, no? Che donano la pace. Grazie anche in modo inconsapevole tante volte, perché lo notiamo dopo, magari le persone ce lo fanno capire, hanno gioia di stare con noi, ma questo deriva dall'avere Gesù dentro di noi, no? Che abita in noi, che è tutt'uno con noi, no? Una sola cosa con noi. E quindi la nostra fede è la fede di chi va sapendo di portare Cristo con sé, no? Pensato che ecco, questo è quello che fanno tutti i cristiani, ma sta anche alla base del viaggiare, per esempio, no? Pensate, a volte penso anche io ai viaggi che fa il Papa, che fa il Papa in quanto Papa, soprattutto negli ultimi decenni siamo stati abituati, all'inizio non era così, e cominciò Giovanni XXIII, il primo viaggio a Loreto, poi piccole cose, poi Paolo VI è invece, ecco, andò a Nazareth in India, negli Stati Uniti c'è, e poi dopo Giovanni Paolo II fece di questi viaggi proprio un aspetto importantissimo della sua pastorale, ma io penso che anche a volte vinceva, e anche il Papa Francesco, la stanchezza. Pensate, Benedetto XVI, che con i suoi 80 anni, ecco, si muoveva per andare alla GMG di Colonia, e fu questo proprio un motivo, lui lo ha spiegato tante volte, della rinuncia al papato attivo, diciamo così, perché il medico gli aveva detto non puoi andare a Rio alla giornata mondiale della gioventù. E invece, quindi, quanta importanza lui dava al fatto che colui che ha più di ogni cristiano come dire, il compito di essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, il dolce Cristo in terra, cioè che quindi andava a portare Gesù con la sua persona presente, e questo non poteva essere una GMG senza il Papa. Quindi ha capito che non aveva più le forze per compiere questo ministero e che venisse un altro che poteva avere le forze di muoversi, di andare, e quindi di portare la pace di Cristo in modo ineffabile, in modo che solo Dio può conoscere, a milioni di persone, a milioni di cuori, no? Pensate a tutti quei milioni di giovani che stavano sulla spiaggia, no? Di Capocabana, in quella GMG di Rio, no? E questo è il motivo dell'andare, no? Dell'uscire, no? Dell'essere chiesa in uscita, no? Nell'omelia di domenica che è stata fatta qui in questo oratorio, Don Giovanni diceva, e qua ha dato questa interpretazione del Vangelo di domenica scorsa, no? Quando è fuori di sé, no? Fuori di sé. Dicevano i parenti di Gesù, no, che stava lì in mezzo alla folla, e questa interpretazione del fatto anche di essere fuori, nel senso di uscire, no, di stare con la gente, in effetti anche rileggendo il Vangelo di domenica con questa ottica, con questa prospettiva, ecco perché c'era tanta folla, ecco perché Gesù stava in mezzo loro con tanta gioia. E la critica dei farisei, che dicono lo muove uno spirito maligno, è una critica che Gesù respinge, e anche dice che è un peccato contro lo Spirito Santo, no? E invece, e anche di fronte a dei suoi fratelli che lo chiamano perché vada da loro, lui dice: questi sono mia madre e i miei fratelli, cioè. E anche significa ci sto bene, no? Con queste persone, perché siamo nella pace della casa, siamo nella pace della famiglia, qui nelle esperienze di chiesa, no? Che stiamo facendo, quindi questa nuova famiglia che Gesù viene a mettere in piedi, no? A fondare. Quindi la pace che noi portiamo, Gesù desidera che ritorni a noi se per caso non viene accolta. Quindi se qualcuno non è figlio della pace, noi non desidera questa pace, però che noi non la perdiamo dentro di noi, che non ci rattristiamo, che non ci angosciamo, che non ci, non so, anche forse colpevolizziamo in modo inopportuno, no? È il Signore che fa la sua chiesa, il Signore che fa la sua opera, no? Attraverso di noi, in buona parte, che siamo strumenti limitati, quindi no, Noi portiamo noi stessi e quindi con noi stessi portiamo Cristo e quindi portiamo la pace, ma questa pace Gesù desidera che noi non la perdiamo se per caso non viene accolta. E certo quando entra a Gerusalemme anche quindi come vedete San Luca è un tema che cita spesso, che tratta spesso anche quando entra a Gerusalemme, ecco, questo entrare nella città, questo essere presente, questo farsi vedere la gente, tutta la folla dei discepoli pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli. Benedetto colui che viene, pace in cielo, gloria nel più alto dei cieli. Anche se poi Gesù piange, ecco, su questa città perché non ha compreso, se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi, per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assediranno e ti stringeranno da ogni parte. Ovviamente sono tematiche misteriose in cui si mescola l'accoglienza di Cristo come pace poi anche a una realtà che conosciamo, no? Storica, no? Di assedio e anche di dispersione, no? Di questo popolo. E poi Gesù porta la pace quando, in un certo senso possiamo dire, quindi dopo la nascita al mondo, l'incarnazione, il Natale, no? E poi quando, dopo la seconda nascita, no? La nascita a questa vita nuova che è la vita del risorto, dopo la risurrezione Gesù porta la pace, mentre si parlavano di queste cose. Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Quindi possiamo pensare, ecco, proprio che tu Gesù porti la pace proprio con la tua persona, il fatto di essere incarnato, Dio incarnato, quindi di essere in mezzo a noi come uno di noi, questo è lo strumento della pace. Se volete, una prova a contrario è invece quell'unico passo di Luca in cui Gesù dice: pensate, al capitolo 12, pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia ci sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2, 2 contro 3, però questo è il paradosso, perché sono divisi diciamo, a motivo di lui, no? Dell'accoglienza o meno del figlio di Dio, del messaggio del Vangelo, della redenzione. Per cui pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico. Perché dici questo Gesù? Beh, perché i tuoi discepoli sono assolutamente convinti, per esperienza, che tu sia venuto a portare pace sulla terra, no? Quindi per rivelare che a volte il Vangelo, no? In realtà in modo misterioso e non voluto, no? Porta divisione perché c'è la non accettazione della pace da parte di alcuni dei membri della famiglia, no? Questa è la profezia anche di future persecuzioni. E questo è il messaggio, no? In San Giovanni in realtà la pace è citata solo dopo, insomma, nell'ultima cena, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi e poi vi ho detto questo perché abbiate pace in me, e senz'altro anche in Giovanni, Gesù, quando sta in mezzo ai discepoli da risorto nel cenacolo, dice per ben due volte pace a voi, e poi la dice anche poi 8 giorni dopo, quando torna nel cenacolo per incontrare Tommaso, no? E pace a voi. E poi negli altri due Vangeli sinottici alcuni accenni alla pace sono paralleli, no, rispetto a San Luca, ma invece quello che è originale, cioè che sta solo in Matteo, è la beatitudine sulla pace, no? E makarioi oi irenopoioi, no? Quindi in greco, quelli beati coloro che fanno l'irene, no? La pace, coloro che fanno la pace. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questa è il Papa, sappiamo che fa un breve commento, no? Questa, alle beatitudini nella lettera, nella esortazione apostolica Gaudete et exultate, e accenna alle situazioni di guerra, però subito poi dice: per noi è molto comune essere causa di conflitti o almeno di incomprensioni, viene più alla quotidianità, no? Per esempio, quando sento qualcosa su qualcuno e vado da un altro e glielo dico, e magari faccio una seconda versione un po' più ampia e la diffondo, e se riesco a fare più danno sembra che mi procuri più soddisfazione. Il mondo delle dicerie è fatto da gente che si dedica a criticare e a distruggere, non costruisce la pace. Questa gente è piuttosto nemica della pace, in nessun modo beata. Si vede che il Papa ha proprio questo, infatti nella nota dice: la diffamazione e la calunnia sono come un atto terroristico, si lancia la bomba, si distrugge, l'attentatore se ne va felice e tranquillo. Questo è molto diverso dalla nobiltà di chi si avvicina per parlare faccia a faccia con serena sincerità, pensando al bene dell'altro. E noi ci riproponiamo di ascoltare questo invito ad essere costruttori di pace attraverso il fatto in negativo di non creare discordie o diffamazioni, e invece in modo positivo di andare a tu per tu, ecco, a correggere o a spiegarsi, no? Ci sono molti modi di farlo. I pacifici sono fonte di pace, costruiscono pace e amicizia sociale, e non è facile costruire questa pace evangelica che non esclude nessuno, ma che integra anche quelli che sono un po' strani, le persone difficili e complicate, quelli che chiedono attenzione, quelli che sono diversi, chi è molto colpito dalla vita, chi ha altri interessi. È duro e richiede una grande apertura della mente e del cuore, poiché non si tratta di un consenso a tavolino o di un'effimera pace per una minoranza felice, né di un progetto di pochi indirizzato a pochi. Nemmeno cerca di ignorare o di simulare i conflitti, ma di accettare, di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di collegamento di un nuovo processo. Si tratta di essere artigiani della pace, perché costruire la pace è un'arte che richiede serenità, creatività, sensibilità e destrezza. Seminare pace intorno a noi, questa santità. A me faceva venire in mente anche questo punto della Gaudete, quell'antico, cioè quello conosciuto da tanto tempo, punto di Cammino, che diceva: non giudicate senza sentire le due controparti. Molto facilmente anche le persone che si ritengono pie dimenticano questa norma di elementare prudenza. E in effetti è proprio così, a volte a me capita di dimenticarlo, quando anche solo interiormente mi faccio un'idea, invece non ho ascoltato anche è l'altra parte, no? Alla fine noi preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo per la pace nella Chiesa, preghiamo per la pace nelle famiglie e cerchiamo di essere. E ringraziamo Gesù, principe della pace, no? Artefice della pace, Cristo nostra pace. E invochiamo la Madonna, no? Con questo punto di solco di San José Maria. La Madonna così invoca la Chiesa è la regina della pace. Per questo quando la tua anima, l'ambiente familiare o professionale, la convivenza nella società o tra i popoli sono agitati, non cessare di acclamarla con questo titolo, Regina Pacis, ora pro nobis. Regina della pace, prega per noi. Hai provato almeno quando perdi la serenità, la sua immediata efficacia ti sorprenderà.